Occupati nelle grandi imprese, sempre grande crisi per l'Istat a ottobre, meno 0,1% sull'anno, meno 1,6%. Statali e scuola, l'emorragia dei posti, nell'istruzione meno 55.000 unità. Riciclaggio, il Papa vara la legge, previsti fino a 15 anni di carcere. Buongiorno dalla redazione, da Laura Bettini. Si va verso il no all'estradizione in Italia di Cesare Battisti. La decisione del presidente brasiliano Lula sul caso dell'ex terrorista rosso è attesa nelle prossime ore. Palazzo Chigi ribadisce di non avere offerto alcuna garanzia a Lula. In diretta con noi c'è Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Laura, è così. Con una nota stamattina Palazzo Chigi è intervenuto per assicurare che il premier Berlusconi ha sempre sostenuto la necessità dell'estradizione di Battisti. Nel comunicato si smentisce in particolare quanto riferito da un senatore brasiliano oggi al quotidiano Il Riformista. Secondo questo politico sudamericano, Berlusconi avrebbe già garantito a Lula che qualunque sia la sua decisione non monterà una polemica sul caso. Palazzo Chigi però, come detto, smentisce, e in attesa della pronuncia di Lula in realtà le polemiche sono già partite. È dura in particolare la presa di posizione del ministro della difesa La Russa, che si è detto pronto anche a sostenere iniziative di boicottaggio nei confronti del Brasile se Battisti non verrà estradato. Dall'opposizione invece il Partito Democratico ha inviato una lettera appello nella quale si chiede a Lula di dire sì all'estradizione di Battisti. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Adesso nel servizio ricostruiamo le tappe di questa vicenda. Ex militante dei PAC, proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, 56 anni, una vita tra carcere e fughe in mezzo mondo. Nel 1985, con sentenza poi confermata in Cassazione, viene condannato in contumacia all'ergastolo per 4 omicidi avvenuti alla fine degli anni 70, omicidi dei quali si dichiara innocente. Si trasferisce prima a Parigi, poi in Messico, dove fonda il giornale Via Libre. Una volta tornato in Francia, nel 1990, grazie alla cosiddetta dottrina Mitterrand, che garantisce asilo politico agli ex terroristi, si rifà una vita e diventa uno scrittore noir di successo. Nel giugno 2004 il Consiglio di Stato francese accoglie definitivamente la richiesta italiana di estradizione e Battisti fugge in Brasile. Nel marzo 2007 viene arrestato sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, ma il governo brasiliano gli concede l'asilo politico. Uno status, quello del rifugiato, che il 18 novembre 2009 la Corte Suprema brasiliana considera illegittimo. La più alta istituzione giurisdizionale del paese si dice favorevole all'estradizione di Battisti in Italia, ma lascia l'ultima parola al presidente Lula. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E così Alberto Torregiani, figlio di una delle vittime di Battisti, a 24 mattina. Mettiamolo in questi termini: ipotesi che magari negli anni 70 questi ragazzi erano incazzati neri con il sistema, non funzionava, non le piaceva e volevano cambiare. Ora, io voglio fare la stessa cosa, a vedere che le rivoluzioni possono essere fatte anche senza le armi, senza la possibilità di dover fare del male a qualcuno, ma soltanto andando in piazza, dimostrando o silenzio o gridando il proprio dissenso a una situazione dove pochi vincono contro la maggioranza, quando tutti sono d'accordo, tutto il mondo, che in un gruppo è la maggioranza che vince. Si chiama democrazia. Notizia battuta poco fa dalle agenzie: c'è stato un raid nella notte sotto casa del governatore della Puglia Nichi Vendola a Terlizzi. Ebbene, è stato identificato un gruppo di giovani del PDL che avrebbe compiuto questo raid. Come dicevamo, è accaduto nel centro storico di Terlizzi, alle porte di Bari. Il governatore, disturbato da schiamazzi, è poi caduto dalle scale e quindi oggi si è presentato zoppicando i suoi vari impegni istituzionali. Sul posto sono intervenuti ieri notte i carabinieri di Molfetta, che hanno sorpreso questi militanti del centrodestra e poi sono stati identificati. Crescono le retribuzioni, ma cala l'occupazione nelle grandi imprese. Sentiamo. L'occupazione nelle grandi imprese è in calo. Lo rileva l'Istat, segnalando che a ottobre è stata registrata, rispetto a settembre, una diminuzione degli occupati nelle fabbriche con 500 o più dipendenti dello 0,1% al lordo della cassa integrazione. La variazione risulta nulla, escludendo i dipendenti per i quali si è fatto ricorso a questo ammortizzatore sociale. Il calo dell'occupazione è più significativo nel rapporto tra ottobre 2010 e lo stesso mese del 2009, con un meno 1,6% al lordo della CIG e un meno 1% al netto. Risultano invece in miglioramento le retribuzioni lorde per ora lavorata, con un incremento del 3% a ottobre 2010 rispetto a ottobre 2009. L'Istat certifica anche che il ricorso alla cassa integrazione guadagni nei primi 10 mesi dell'anno diminuisce di 8,7 ore ogni 1000 lavorate. L'istituto ha quindi diffuso i dati di novembre sui prezzi alla produzione dei prodotti industriali, che sono aumentati dello 0,4% rispetto a ottobre e del 4% in rapporto a novembre 2009. Nicola Filippone, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E calano i dipendenti pubblici, soprattutto per effetto dei tagli agli insegnanti, ma chi rimane ha per lo Stato un costo più elevato. Più della metà sono donne, il 55%, e guadagnano mediamente 34.500 euro. Sono alcuni dei dati forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato nel conto annuale aggiornato al 2009 e appena pubblicato sul Pubblico Impiego. Il 10% in meno rispetto a un anno fa e le spese rilevanti rinviate a dopo le feste, quando ci saranno i saldi. È il dato più rilevante sui consumi natalizi nel settore abbigliamento, rilevato da Fismo Confesercenti. Dopo un Natale poco brillante, in sostanza 6 italiani su 10 sono intenzionati ad effettuare acquisti di un certo peso durante i prossimi saldi al via il 2 di gennaio. E ora le reazioni. Il giorno dopo la firma del contratto su Pomigliano da parte di CISL e UIL, lo strappo della FIOM. In diretta con noi Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Un accordo che divide dunque quello siglato ieri per lo stabilimento campano. La FIOM CGL risponde con 8 ore di sciopero di categoria fissato per il 28 gennaio, con il segretario Landini che parla di un atto antidemocratico senza precedenti. Soddisfatte le altre sigle sindacali, quelle di settore ma anche UIL e CISL. Per Bonanni il Sud ha bisogno come il pane di accordi come quello di Pomigliano. La Confindustria poi, Viale dell'Astronomia, si dice pronta a fare un nuovo accordo con CGL, CISL e UIL sulla rappresentanza. Il vicepresidente Bombassei però spiega: la FIOM è fuori dal tempo e dal mondo. Il fronte politico plaude nella sostanza all'intesa che rilancia lo stabilimento di Pomigliano. Soddisfatti i ministri del welfare Sacconi e dello sviluppo economico Romani. Bene l'accordo, dice la maggioranza, ma l'umori nel Partito Democratico, anche se il segretario Bersani detta la linea del partito e spiega: gli investimenti della Fiat sono prioritari, ma lo strappo sui diritti sindacali è ingiustificabile e pericoloso e va corretto. A bocciare l'intesa e infine la sinistra con Vendola. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Reclusione fino a 12 anni per riciclaggio, 15 anni per reati legati al terrorismo e all'eversione. Carcere anche per malversazione ai danni dello Stato, da 6 mesi a 4 anni. Truffa, da 1 a 6 anni. Abuso di informazioni privilegiate, da 1 a 6 anni. È quanto prevede la legge 127 dello Stato della Città del Vaticano, che è stata promulgata oggi dal Papa, che prevede pene specifiche anche per manipolazione del mercato, per la tratta di persone, vendita di prodotti con segni mendaci, contrabbando, tutela dell'ambiente, traffico illecito di rifiuti. Adesso andiamo all'estero. L'ex presidente israeliano Moshe Katsav è stato oggi riconosciuto colpevole di 2 casi di stupro dal tribunale distrettuale di Tel Aviv. Katsav rischia quindi una condanna a 16 anni di reclusione. Sempre dall'estero, appena battuta dalle agenzie, i 3 sospetti di voler compiere un attentato contro il giornale danese Jylland Posten, che sono comparsi oggi davanti al tribunale di Glostrup, che si trova nei pressi di Copenaghen, sono stati messi in detenzione provvisoria per 4 settimane e erano stati fermati ieri nell'ambito di una operazione antiterrorismo, appunto. Una bomba è esplosa davanti al tribunale di Atene dopo una telefonata che ha permesso l'evacuazione della zona. Nessuna vittima. Un'altra bomba è esplosa senza causare né vittime né particolari danni davanti all'ambasciata di Grecia nella capitale argentina, Buenos Aires. Andiamo alla cronaca. Si sta normalizzando la situazione in provincia di Arezzo dopo il guasto della diga di Monte d'Oglio. In diretta con noi Daniele Morini. Sì, l'avete detto voi, la situazione si va normalizzando, ma la paura questa notte è stata davvero tanta per i residenti della Valle del Tevere. Infatti la diga di Monte d'Oglio, che sbarra il Tevere poco sotto a Pieve Santo Stefano, proprio sui confini tra Toscana ed Umbria, si è rotta una paratia, una valvola, e c'è stato un getto d'acqua improvviso di quasi 600 metri cubi al secondo. Ora la situazione si sta tranquillizzando, si sta normalizzando, perché il getto, che ancora non è stato riparato, però è sceso a 180 metri cubi al secondo. Nella notte sono state evacuate circa 200 persone. persone dalla vallata, ponti chiusi tra Sansepolcro e Città di Castello, ma dovrebbero essere riaperti, ci hanno assicurato i tecnici, nelle prossime ore. Siamo proprio nella zona della protezione civile a Sansepolcro, dove si alzano in volo gli elicotteri dei vigili del fuoco e della forestale. Ci hanno assicurato gli elicotteristi che la piena è passata nella Valle del Tevere, sta andando giù verso sud, verso Perugia, ma la situazione appunto si sta tranquillizzando. Ci vorrà ora la conta dei danni, ci sarà la conta dei danni, che sono molto ingenti, perché il Tevere è uscito molto copiosamente in tutta la vallata. Da Sansepolcro è tutto. Grazie Daniele Morini. Andiamo adesso un po' più distante. Ucciso un consigliere comunale nello Spezzino, motivi passionali, non politici. Andrea Giacomelli, consigliere comunale ed esponente di Sinistra e Libertà, è uscito di casa all'alba e a piedi si è diretto verso l'auto posteggiata poco distante, sulla quale, come ogni mattina, avrebbe raggiunto il bar che gestiva da anni all'interno di un centro commerciale, ma non ha fatto a tempo a salire sulla vettura che un killer gli ha sparato contro 7 colpi calibro 7,65 e poi ha mirato contro le gomme dell'auto. Andrea Giacomelli non ha avuto scampo. Aveva 37 anni, a Castelnuovo Magra era molto noto. La pista della vendetta collegata all'attività politica è evaporata in fretta. I carabinieri hanno indirizzato le indagini verso la vita privata di Giacomelli, che da un paio d'anni conviveva con una donna separata e madre di due figli. Da ore l'ex marito, un pregiudicato originario della Campania, è irreperibile. A Castelnuovo Magra, 8.000 abitanti al confine con la Toscana, l'agguato ha sconvolto l'intera comunità. Arrigo Cervi è un funzionario comunale. Aveva una delega allo sport e niente, era un rappresentante di Sinistra e Libertà. Però era stato eletto nella lista del sindaco, una lista civica, una lista di centrosinistra, ecco. Non penso proprio, poi le cose non si può mai dire, però non credo proprio che la politica possa in qualche modo aver condizionato e influenzato queste cose, insomma. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Da oggi italiani in marcia su strade e autostrade per l'ultimo dell'anno, mete preferite le città d'arte e la montagna. Conto alla rovescia al Colosseo, Brindisi sotto la Mole Antonelliana, fuochi d'artificio in Piazza Duomo. Città d'arte ai primi posti nella classifica delle mete preferite dagli italiani per le partenze dell'ultimo dell'anno. Nella lista, stilata dal Ministero del Turismo, spicca la capitale con il 6,3% delle prenotazioni, seguita da Torino, seconda classificata con il 2,2%, e da Milano, Firenze e Venezia. Cenone sulla Neve invece per 4 italiani su 10. Destinazioni preferite le vette di Lombardia, Alto Adige e Piemonte. E anche se molti, il 68%, non si sposteranno da casa, il vero protagonista del Capodanno sarà il traffico. Le raccomandazioni per chi viaggia del direttore della Polizia Stradale Roberto Sgalla. L'invito è la prudenza, partendo informati sulle condizioni meteorologiche e sulle condizioni del traffico stesso. Laddove ci sono le ordinanze, di avere le catene o i pneumatici invernali. Ricordo a tutti che ormai c'è l'obbligo anche dove non c'è costanza di neve, ma semplicemente laddove l'ordinanza prevede l'uso da circa metà novembre fino a fine marzo. Altra cosa, viaggiare riposati, non bere, perché i riflessi ne risentono. Jacopo Matano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ultimati a livello europeo i dettagli tecnici per il caricatore unico per i cellulari di nuova generazione. Mancava solo il bollo di due uffici europei, quello per gli standard elettrotecnici e quello per le telecomunicazioni, che ieri hanno completato un lavoro durato più di un anno, frutto di un accordo firmato nel giugno 2009 dall'Unione Europea e i 13 maggiori produttori di telefoni cellulari come Apple, Nokia, RIM, LG e Samsung. La nuova normativa tecnica riguarderà solo gli smartphone e permetterà di armonizzare i caricatori già dai primi mesi del 2011, anche se Bruxelles stima che ci vorranno almeno 2 anni per una diffusione completa. Lo standard scelto è il micro USB, da non confondere con la normale connessione USB o la mini USB. Oltre ai comprensibili vantaggi per chi deve ricaricare uno o più telefoni, anche di marche diverse, ci saranno indubbi benefici per l'ambiente, considerando i milioni di telefoni acquistati in Europa ogni anno. In particolare, gli smartphone venduti nel 2010, secondo le stime della società Gartner, saranno oltre 80 milioni, in forte crescita dai 45 del 2009. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo GR24, che è stato curato da Daniele Biacchessi, condotto da Laura Bettini. In regia c'è Fabio Cantadori. Prossimo appuntamento alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.